Meccanica quantistica, relatività, fisica statistica, elettromagnetismo. Come sono state fatte queste scoperte? E poi tutte le curiosità sulla vita di Niels Bohr, di Newton o di Marie Curie. Bisognerebbe intervistare i fisici del passato. Ma queste interviste sono impossibili. No, non esistono interviste impossibili per Radio Mocha. Intervista impossibile a Robert Oppenheimer. Voci di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli. Salve, dottor Oppenheimer. Come sta? Beh, potrebbe andare meglio. Preferirei essere ancora vivo, ma non mi lamento. Lei è una figura controversa, un pentito della bomba atomica. Potrebbe raccontarci un po' quella che è stata la sua vita? Allora, sono nato nel 1904 a New York. Come tanti scienziati, anch'io sono ebreo. I miei sono di origine tedesca. Da giovane mi interessavo solo alla fisica, non leggevo mai giornali né riviste, non avevo radio e non avevo telefono. Ho saputo del crollo del mercato azionario del 29 solo molto tempo dopo, quando me l'hanno raccontato, non me ne ero accorto lì per lì. La prima volta che ho votato è stata nelle elezioni presidenziali del 36. A molti dei miei amici la mia indifferenza nei confronti degli affari contemporanei sembrava molto bizzarra e spesso mi dicevano che ero un intellettuale. Mi interessava l'uomo e la sua esperienza, ero profondamente interessato alla scienza, ma non ho mai veramente capito le relazioni tra l'uomo e la società. È sempre stato negli Stati Uniti? No, sono stato a Cambridge, al Cavendish Institute e poi a Leida, Gottinga e Zurigo. Ho anche lavorato con Bohr, infatti ancora si parla dell'approssimazione di Bohr-Oppenheimer. E di cosa si tratta? Delle proprietà oscillatorie delle molecole. In linea di principio, per capire come si comporta una molecola, bisognerebbe risolvere la funzione d'onda degli elettroni, considerando anche i nuclei mobili. Si tratta di un problema molto difficile, soprattutto quando, come ai miei tempi, non c'erano i computer. Bohr e io pensammo che gli elettroni sono molto più leggeri dei nuclei e quindi potevamo usare un'approssimazione a due tempi. Prima consideravamo i nuclei fermi e quindi potevamo risolvere la funzione d'onda degli elettroni. In base a questa potevamo poi stimare la forza tra i nuclei e quindi farli spostare di un po' e ripetere quindi il primo calcolo. Certo, per problemi complicati ci vuole un computer, ma nei casi semplici si riusciva a trovare una ottima corrispondenza con gli spettri vibrazionali osservati sperimentalmente. Ovviamente, se poi ci sono delle modifiche strutturali nelle configurazioni degli elettroni al variare della distanza tra i nuclei, la nostra approssimazione non funziona. Comunque poi nel 29 tornai in patria e divenni un buon insegnante e penso anche un buon ricercatore. Ma davvero lei era così poco interessato a tutto ciò che non era la fisica, anche con le ragazze? No, devo dire che le ragazze mi interessavano, ma devo dire che effettivamente è un sesso completamente diverso. In quegli anni girava voce che io stessi con Melba Phillips, la mia prima studentessa di dottorato. Una volta la polizia trovò Melba addormentata in un'auto sulle colline di Berkeley. Quando la risvegliarono, disse che io avevo guidato la macchina fin lassù, ma che non aveva idea di che cosa mi fosse stato di me. A forza di cercarmi, mi trovarono addormentato nella mia stanza. Tutti erano convinti che mi fossi dimenticato di lei e dimenticato anche dell'auto. In realtà era lei che si era addormentata in un posto strano. Cioè, io le avevo lasciato l'auto e me ne ero andato semplicemente a letto. Quindi vuol dire che lei era una persona perfettamente normale? No, forse ero veramente un po' troppo distratto. Per esempio, mangiavo molto poco e soprattutto non mi curavo molto del sapore del cibo. E non riuscivo a capire che le altre persone magari avrebbero voluto saziarsi di più. Ovvero, accadeva spesso che i miei ospiti andassero via da casa affamati. Lei ha avuto anche delle altre disavventure con l'auto? Beh sì, mi piaceva guidare veloce. A quei tempi la mia auto era una Roadster Packard che io chiamavo Gerida, il nome del messaggero degli dei in sanscrito. Agli inizi degli anni 30 mi schiantai con l'auto mentre stavo facendo le corse con un treno vicino a Los Angeles. La mia passeggera aveva battuto la testa ed era svenuta, ma io ero convinto che fosse morta. In seguito mio padre le regalò un disegno di Cézanne e un piccolo dipinto di Vlaminck per scusarsi. Altre storielle? Ma sono tutte esagerazioni. Per esempio, una volta chiesi a Leon Edelsky di tenere una conferenza al posto mio perché dovevo andare a Pasadena. Lui era preoccupato perché non conosceva l'argomento, ma io lo tranquillizzai. Non ti preoccupare, ti darò un libro su cui c'è tutto. Però quando glielo diedi, Edelsky obiettò che il libro era in olandese. E io dissi, ma è olandese facile. Ma però, alla fine, si interessò anche alla politica. A partire dalla fine del 36, i miei interessi effettivamente cominciarono a cambiare. Questi cambiamenti non è che abbiano poi alterato le mie precedenti amicizie, le mie relazioni con gli studenti, nella mia devozione alla fisica, però avevano aggiunto qualcosa di nuovo. Potevo vedere in retrospettiva più di una ragione per questi cambiamenti. Ero infuriato per il trattamento degli ebrei in Germania. Avevo dei parenti lì che poi avevo aiutato a venire via. Ho visto cosa stava facendo la Grande Depressione ai miei studenti. Spesso non potevano ottenere posti di lavoro o, se li trovavano, erano posti di lavoro completamente inadeguati. E attraverso di loro ho cominciato a capire quanto profondamente gli eventi politici ed economici potevano influenzare la vita degli uomini. Ho cominciato a sentire la necessità di partecipare maggiormente alla vita della comunità, ma non sapevo come. Nella primavera del 36 poi incontrai Jen Tatlock, che era allora 25enne, una bella ragazza, e stava facendo il dottorato in psichiatria a Stanford. Suo padre era un professore di letteratura medievale a Berkeley, ben noto per le sue opinioni di destra. Viceversa, la figlia era sempre più impegnata in attività di sinistra e quando mi incontrò era un membro attivo del Partito Comunista e mi presentò ai suoi amici. Aveva capelli scuri, era alta e snella, con gli occhi verdi. Una combinazione di bellezza e intelligenza che trovai irresistibile. Siamo stati almeno due volte abbastanza vicini al matrimonio, ma ogni volta che stavamo lì per sposarci, Jen scappava via. Gran parte dei suoi problemi derivavano dal suo stato di depressione. Nel 1944 poi alla fine si suicidò, almeno apparentemente. C'è chi sospetta che sia stata assassinata. Quindi anche lei era un comunista? No, non sono mai stato comunista, non mi sono mai iscritto al partito. È stato solo un momento. Mi ricordo che tutto finì praticamente la sera di Pearl Harbor, perché quella sera andai a una festa che era stata organizzata per dare sostegno ai repubblicani spagnoli. E il giorno dopo però, quando abbiamo sentito la notizia dello scoppio della guerra, ho deciso che avevo dato abbastanza per la causa spagnola e che c'erano problemi più urgenti al mondo. E quindi si mise a lavorare sulla bomba atomica. Si andava in fretta a quei tempi. La fissione nucleare fu scoperta solo nel 1939 da Otto Hahn e Fritz Strassmann, correttamente interpretata poi da Lise Meitner e Otto Frisch. E nel 1941, cioè appena due anni dopo, incominciamo a lavorare alla separazione dell'uranio 235. Mi misero dal capo del team, nonostante non avessi nessuna esperienza organizzativa e non avessi neanche vinto un premio Nobel, perché non c'erano esperti, il campo era troppo nuovo. E quindi lei guidò il progetto Manhattan. Sì, fu un gran lavoro. Si lavorò su due linee diverse. La bomba ad uranio 235, più semplice come concetto, ma difficile da produrre, in quanto questo tipo di uranio è chimicamente uguale a quello più comune, il 238. E quindi si dovette procedere per via fisica, ovvero usando delle enormi centrifughe. Alternativamente si può usare il plutonio 239, che si ottiene dall'uranio 238 usando un reattore nucleare. Fu il gruppo di Fermi a produrlo a Chicago. La prima bomba atomica che fu fatta esplodere, quella del Trinity Test, fu al plutonio, come quella che poi lanciammo come seconda sul Giappone a Nagasaki, mentre la bomba atomica di Hiroshima era di quel tipo all'uranio 235. Ma lei poi si pentì. Sì, ho detto che abbiamo fatto un lavoro del diavolo. Le bombe sono bombe e uccidono le persone, inutile negarlo o nascondersi dietro all'abilità della fisica, come disse Fermi. Io sono sempre stato consapevole della mia responsabilità, ma c'era da battere Hitler. Dopo la fine della guerra, però, non c'erano più alibi. Avevamo davanti due strade diverse. O sviluppare le bombe come se fossero delle bombe normali, ma un pochino più potenti, ovvero un approccio tattico, oppure sviluppare delle bombe che potevano colpire in profondità nel campo nemico, ovvero un approccio strategico. Nell'approccio tattico, essenzialmente le bombe sono piccole bombette che vengono usate nei teatri di guerra, per esempio lanciate da un cannone o da un piccolo missile, e servono essenzialmente a scopi difensivi. E viceversa, per l'altro tipo di approccio, quello strategico, occorreva delle bombe molto potenti, e occorreva portarle nel campo nemico, quindi usare dei razzi o degli aerei, era chiaramente l'approccio sostenuto dalle forze aeree. Io ero contrario, mentre dall'altra parte c'era Edward Teller, che era il proponitore della visione strategica, e chiaramente alla fine lui vinse. Io venni estromesso e anzi venni incriminato come comunista. Per fortuna Einstein prese le mie difese, e potei quindi ritirarmi praticamente a fare il direttore dell'Institute for Advanced Study di Princeton, dove lavorava anche Einstein, appunto. Solo nel 63 mi riabilitarono in qualche modo, dandomi il premio Enrico Fermi. La sua quindi è stata una vita difficile. Mi hanno attribuito questa frase. L'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è vero. Non è la frase mia, è una frase di James Branch Cabell, ma io la condivido in pieno. Bene, grazie di questa intervista e arrivederci. Arrivederci, chiamatemi pure quando volete.